Capitolo 4. La soffitta. La signorina Polly Harrington non si alzò per andare incontro alla nipotina. Tutto quello che fece fu di alzare lo sguardo dal libro, quando Nancy e la ragazzina apparvero sulla soglia del salotto. Tese poi una mano e tutto in lei esprimeva il rigore del dovere. «Come stai, Pollyanna? Io non riuscii ad aggiungere nient'altro.» Poiché Pollyanna aveva già attraversato la stanza di corsa e si era precipitata ad abbracciare la zia. Oh, zia Polly, non so come dirti quanto io sia felice che tu mi abbia concesso di venire a vivere con te, disse singhiozzando. Non puoi immaginare quanto sia bello per me avere te e Nancy e tutto il resto quando non si è avuto altro che le signore dell'assistenza. Posso immaginarlo, per quanto non abbia avuto il piacere di conoscere queste signore, disse freddamente la signorina Polly, cercando di liberarsi dall'abbraccio e lanciando severe occhiate a Nancy, là impalata sulla soglia. Va bene, Nancy, puoi andare. Tu, Pollyanna, per favore, stai diritta come si deve. Non ti sei ancora lasciata guardare. Pollyanna obbedì immediatamente, sorridendo un po' imbarazzata. Sì, ma vedi, non sono molto carina. Comunque, penso anche per via delle lentiggini. Ah, e poi ti devo spiegare la storia del vestito a quadretti e della giacca di velluto nero con i gomiti lisi. L'ho già spiegato a Nancy che papà diceva. Sì, va bene, non importa. Ora quello che diceva tuo padre, disse la signorina Polly interrompendola bruscamente. Avrai un bagaglio, penso. Oh sì, certo, zia Polly, ho un baule tutto nuovo che mi hanno regalato le signore dell'assistenza. Di mio dentro veramente non c'è molto perché in questi ultimi tempi la missione non ha ricevuto roba per bambini. Ci sono però tutti i libri di papà. La signora White ha detto che avrei dovuto averli io perché, vedi, papà. Pollyanna! La interruppe di nuovo la zia. C'è una cosa che bisogna mettere subito in chiaro ed è che non desidero sentir parlare di tuo padre. La bambina avvertì come un groppo alla gola. Come? Zia Polly, vuoi dire? Esitò e la zia ne approfittò. Adesso saliamo in camera tua. Il tuo baule deve essere già là. Avevo detto a Timothy di portarlo subito su, se tu ne avessi avuto uno. Seguimi, Pollyanna. Senza dire una parola, Pollyanna si voltò e seguì la zia. Aveva gli occhi pieni di lacrime, ma teneva coraggiosamente la testa diritta e il mento fermo. Pensava, dopotutto, sono contenta che non voglia sentir parlare di papà. Forse sarà più facile per me se non parliamo di lui. Probabilmente è per questo che me l'ha detto. E ancora una volta, Pollyanna si convinse della gentilezza della zia. Si asciugò le lacrime e si guardò intorno con molta curiosità. Mentre salivano le scale, la gonna di seta nera della zia davanti a lei frusciava deliziosamente. Alle sue spalle aveva intravisto, da una porta rimasta aperta, tappeti dalle tinte delicate e sedie ricoperte di seta. Sotto i suoi piedi, intanto, la passatoia dava la sensazione di un morbido muschio. Sulle pareti, le cornici dorate dei quadri rilucevano i raggi del sole filtrati dalle delicate tende di pizzo. Oh, zia Polly, esclamò estasiata la ragazzina. Che bella casa, che casa stupenda. Come devi essere contenta di essere tanto ricca. Pollyanna, disse con uno scatto la zia, voltandosi bruscamente nel momento in cui giungevano in cima alla scala. Mi meraviglio di te, dirmi una cosa simile. Perché, zia Polly, non è forse vero che sei ricca? Disse Pollyanna con sincero stupore. Proprio no, Pollyanna. Spero, come ho fatto finora, di non peccare mai d'orgoglio di fronte ai doni che al Signore è sembrato bene concedermi, dichiarò la zia. La signorina Polly a quel punto proseguì lungo il corridoio fino alla porta che dava sulla scala del sottotetto. Era soddisfatta di aver sistemato la bambina nella stanzetta del sottotetto. Il suo primo impulso era stato di tenerla separata da lei il più possibile e di piazzarla in un posto dove, data la sua età, potesse recare meno danno possibile. Ora, vista la vanità della quale, pur così giovane, aveva dato prova appena arrivata, era tanto di guadagnato, pensava la signorina Polly, che la stanza preparata per lei fosse spoglia e senza tanti fronzoli. Sempre più attratta da quanto stava via via scoprendo, Pollyanna seguiva la zia. I suoi grandi occhi azzurri osservavano incantati, cercando di non perdere nulla di quanto intravedeva in quelle affascinanti stanze. Ma il suo pensiero era più di tutto volto a indovinare dietro quale di quelle straordinarie porte si trovasse la sua stanza. Una bella camera piena di tende, di tappeti e di quadri che sarebbe stata tutta sua. Proprio Proprio in quel momento la zia aprì una porta e salì qualche altro gradino. Là in alto, però, c'era ben poco da ammirare. Le si presentò allo sguardo una parete spoglia, tanto a destra quanto a sinistra. In cima alla scala si allungavano spazi bui fino agli angoli più lontani, dove la falda del tetto si abbassava verso il pavimento e dove erano ammassati alla rinfusa bauli e scatole polverose. Faceva caldo e l'aria era soffocante. Istintivamente Pollyanna alzò la testa, come se facesse fatica a respirare. Ma intanto la zia aveva aperto una porta verso destra. Ecco, Pollyanna, questa è la tua stanza, c'è già il baule. Hai la chiave? Con uno sguardo intimorito, Pollyanna annuì senza dire una parola. La zia la guardò seria. Quando ti faccio una domanda, Pollyanna, desidero che tu risponda a voce alta e non con un semplice cenno del capo. Sì, zia Polly, così va meglio. Penso ci sia tutto quello che ti possa servire, aggiunse, dando un'occhiata ai ganci dai quali pendeva qualche asciugamano e al catino dell'acqua. Ti manderò su Nancy ad aiutarti a disfare il baule. La cena è alle 6, disse, e lasciò la stanza, scomparendo. Andata via la zia, Pollyanna restò immobile, lasciando vagare lo sguardo sulle pareti nude, sul pavimento senza tappeti e sulle finestre senza tende. Poi si fermò a guardare il baule, che non molto tempo prima era ancora nella sua camera laggiù, nel lontano ovest. Poi fece per avvicinarsi al baule, inciampò e cadde sulle ginocchia, coprendosi il viso con le mani. Fu così che la vide Nancy quando salì, pochi minuti più tardi. Su, su, tesoro, disse piano, sedendosi per terra e prendendo la bambina tra le braccia. Temevo proprio di trovarti così. Pollyanna scosse la testa. Oh, io sono cattiva e meschina, Nancy, terribilmente meschina, disse singhiozzando. Non riesco a capire perché Dio e gli angeli abbiano bisogno del papà più di me. E infatti non ne hanno bisogno, disse Nancy dura. Oh, Nancy. Pollyanna era talmente scandalizzata che smise di piangere di colpo. Nancy le sorrise, un po' pentita di averle parlato così. Beh, beh, non badarmi, disse con vivacità. Vieni qui e dammi la chiave, così apriamo il baule e lo svuotiamo in fretta, vedrai. Pollyanna le porse la chiave. Non c'è molto da tirar fuori comunque, disse. Bah, così faremo prima, disse Nancy. Pollyanna si illuminò di un improvviso sorriso. È vero. Non ci avevo pensato. Posso essere contenta lo stesso? Non ti pare? Disse. Nancy fece tanto d'occhi. Ma sì? Certo, disse un po' indecisa. Le mani esperte di Nancy svuotarono velocemente il baule. I libri, la biancheria rammendata, i vestiti molto modesti. Adesso Pollyanna sorrideva con coraggio e saltellando intorno per la piccola stanza aiutava Nancy ad appendere gli abiti nell'armadio, a mettere i libri in pila sul tavolino e a sistemare la biancheria nei cassetti del comò. Sono sicura che questa camera finirà col diventare molto carina, disse a un certo punto Pollyanna. Non credi? Nessuna risposta. Nancy sembrava molto occupata con il baule. Pollyanna, in piedi davanti al comò, fissava quasi sovrappensiero la parete nuda senza specchi. Sai cosa ti dico? Sono contenta che non ci sia nemmeno qui lo specchio, così non sarò costretta a vedermi le lentiggini. Nancy fece una piccola smorfia, ma quando la bambina si voltò a guardarla era di nuovo intenta a rovistare nel baule. Intanto Pollyanna, che si era avvicinata a una delle finestre, lanciò un grido e batté le mani gioiosamente. Oh, Nancy, non me ne ero accorta prima, disse. Che bella vista! Guarda laggiù quegli alberi, le case, quel campanile così grazioso e il fiume che luccica al sole. Davvero non c'è bisogno di quadri quando si ha davanti un panorama simile. Oh, sono proprio contenta che zia Polly mi abbia dato questa stanza. Con grande stupore di Pollyanna, Nancy scoppiò a piangere. La bambina le fu subito vicino. Che cos'hai, Nancy? Domandò con apprensione. Poi, preoccupata, aggiunse: Non era per caso la tua camera? La mia camera? Disse Nancy con foga, ricacciando indietro le lacrime. Oh, se tu non sei un piccolo angelo sceso direttamente dal cielo e se certa gente non si inginocchia davanti. Oh, accidenti, questo è il suo campanello. Terminato questo strano discorsetto, Nancy si alzò di scatto e corse fuori dalla stanza, scendendo a precipizio le scale. Rimasta sola, Pollyanna tornò al suo quadro. Così, infatti, nella sua immaginazione vedeva il bel panorama che le si offriva dalla finestra. A quel punto, però, l'aria soffocante della stanza le sembrò davvero insopportabile. Provò allora a sollevare il pannello della finestra, che scivolò subito verso l'alto, e un attimo dopo la finestra era spalancata e la bambina poté sporgersi a respirare a pieni polmoni l'aria pura e fresca. Corse all'altra finestra e anche quella fu presto sollevata dalle sue piccole mani impazienti. Una grossa mosca le sfiorò il viso e si mise a ronzare per la stanza. Poi ne entrò un'altra e un'altra ancora, ma Pollyanna non ci badava, poiché intanto aveva fatto un'altra scoperta. Un enorme albero stendeva i suoi lunghi rami proprio vicino a quella finestra e a lei sembravano altrettante braccia stese per invitarla a rifugiarsi tra la loro ombra. Scoppiò in una bella risata. Credo di farcela, pensò. Un attimo dopo era seduta sul davanzale e da lì non le fu difficile allungarsi fino al ramo più vicino. Vi si aggrappò e quindi, come una vera scimmietta, scese di ramo in ramo fino a raggiungere quello più basso. Il salto a terra fu, anche per lei, abituata ad arrampicarsi sugli alberi, un po' più impegnativo, però, trattenendo il fiato e oscillando, appesa per le braccia piccole ma robuste, riuscì ad atterrare carponi e senza danno sull'erba morbida. Si rialzò subito e si guardò intorno soddisfatta. Si trovava sul retro della casa. Davanti a lei si stendeva il giardino dove un uomo curvo stava lavorando. Al di là del giardino, un sentierino attraverso i campi portava in cima alla collina, dove un pino solitario sembrava montare la guardia davanti a un enorme sperone di roccia. In quel momento a Pollyanna sembrò che l'unico posto del mondo in cui valesse la pena di stare fosse proprio la cima di quel roccione. La bambina si mise a correre e con un'accorta deviazione evitò di incontrare l'uomo curvo al lavoro, dirigendosi verso un ordinato filare di piante finché, un po' senza fiato, poté raggiungere il sentiero attraverso i campi. Poi prese a salire spedita, ma presto dovette accorgersi che il roccione era molto più distante di quanto non le fosse sembrato. Un quarto d'ora più tardi il grande orologio nell'ingresso di casa Harrington suonò le 6 ed esattamente dopo l'ultimo rintocco il gong di Nancy chiamò a cena. Passarono 1, 2, 3 minuti. La signorina Polly corrugò la fronte e batté nervosamente un piede sul pavimento. Poi si alzò di scatto, andò nell'ingresso e guardò verso l'alto, su per la scala, dando visibilmente segni di impazienza. Restò 1 minuto in ascolto, poi tornò in sala da pranzo. Nancy, disse decisa non appena la piccola domestica apparve, mia nipote è in ritardo. No, non devi chiamarla, continuò con severità, vedendo che Nancy stava per dirigersi verso il vano d'ingresso. Le avevo precisato l'ora della cena e adesso pagherà le conseguenze del suo modo di comportarsi. Tanto vale che impari subito a essere puntuale. Quando scenderà potrai darle pane e latte in cucina. Va bene, signorina. E fu bene, forse, che la signorina Polly non avesse scorto il volto di Nancy in quel momento. Non appena le fu possibile, dopo cena, Nancy salì la scala posteriore e di lì raggiunse il sottotetto. Pane e latte, ma bene, come se quella povera piccola non avesse già sofferto abbastanza, diceva tra sé furiosa nell'avvicinarsi alla porta. Un attimo dopo, davanti alla stanza vuota, restò stupefatta. Dove sei? Gridò. Pollyanna, dove ti sei nascosta? Chiese ansiosa, guardando nell'armadio, sotto il letto e perfino nel baule. Poi di corsa ridiscese e andò in giardino da Tom. Tom, Tom, la ragazzina è sparita, disse in un lamento. È svanita in cielo, da dove è venuta, povera piccola? E quella là vuole che le dia pane e latte in cucina, ma la piccina starà mangiando il pane degli angeli, sicuro, sicuro. Il vecchio giardiniere si raddrizzò. Andata in cielo? Ripeteva sbigottito, scrutando senza volerlo il cielo arrossato dal tramonto. Poi fissò lontano qualcosa per un attimo con attenzione e finì per voltarsi verso Nancy con un bel sorriso. Beh, Nancy, in effetti sembra proprio che abbia voluto andare il più possibile vicino al cielo, disse indicando con un dito incurvato il punto in cui, sullo sfondo rosso del tramonto, si stagliava una piccola figurina che avanzava nel vento, ben visibile in cima al roccione. Bene, per stavolta in cielo non ci andrà, commentò Nancy. Se la padrona domanda di me, dille che non ho dimenticato di rigovernare, che sono andata a fare una passeggiata, e si mise a correre attraverso il giardino in direzione dei campi. Capitolo V. Il gioco. Perché mi hai fatto tanto spaventare, signorina Pollyanna? Chiese Nancy ansimando dopo che era arrivata ai piedi dello sperone di roccia dove la bimba era appena ridiscesa con evidente rincrescimento. Ti ho fatto spaventare? Oh, mi dispiace, ma non devi mai preoccuparti per me, Nancy. Anche papà e le signore dell'assistenza si preoccupavano finché si sono rassegnati, tanto finivo per tornare sempre a casa senza un graffio. Ma non sapevo nemmeno che fossi uscita, disse Nancy prendendo la ragazzina sotto braccio e correndo giù per il pendio. Non ti ho vista uscire, nessuno ti ha vista. Scommetto che te ne sei andata per il tetto. Pollyanna saltellò soddisfatta. È proprio quello che ho fatto, solo che invece di salire sopra il tetto sono scesa dall'albero. Nancy si arrestò di colpo. Che cosa hai fatto? Sono uscita dalla finestra e poi mi sono lasciata scivolare lungo i rami dell'albero. Oh, benedetti numi! Disse Nancy quasi senza fiato, riprendendo la corsa. Vorrei sapere quello che tua zia avrà da dire su questo. Davvero? Bene, allora glielo dirò io, così lo saprai, rispose Pollyanna con allegro candore. Per amor del cielo, disse Nancy terrorizzata. No, no! Vuoi dire che si arrabbierebbe? Domandò Pollyanna chiaramente preoccupata. No, anzi, sì, beh, lasciamo perdere. Non mi importa sapere che cosa direbbe. Disse Nancy borbottando, decisa a evitare a Pollyanna una sgridata, se non di peggio. Ma è meglio che ci sbrighiamo, ho ancora tutti i piatti da lavare. Ti aiuterò io, le promise immediatamente Pollyanna. Oh, signorina Pollyanna, esclamò Nancy esitante. Per un po' procedettero in silenzio. Il cielo si stava oscurando rapidamente e Pollyanna strinse più forte il braccio della sua amica. Sono contenta, dopo tutto, di averti fatto stare in pensiero perché così sei venuta a cercarmi, disse con un brivido. Oh, povero uccellino, devi anche aver fame. Io temo che dovrai mangiare pane e latte in cucina con me. Tua zia vuole così perché non sei stata puntuale per la cena, capisci? Ma non potevo, ero lassù. Sì, d'accordo, ma lei non lo sapeva, disse Nancy, e mi spiace per il pane e il latte, proprio davvero. Ma a me non dispiace per niente, io sono contenta. Contenta? E perché? Perché il pane e il latte mi piacciono e perché così potrò mangiare con te in cucina. Oh, beh, sembra che tu non faccia fatica a essere contenta di tutto, disse Nancy con una certa ironia, ancora scossa al ricordo del coraggioso sforzo di Pollyanna nell'accettare di buon grado la squallida stanza nel sottotetto. Pollyanna abbozzò un sorriso. Beh, comunque fa parte del gioco. Del gioco? Sì. Il gioco del sì, sempre contenta. Di che cosa diavolo stai parlando? Oh, ma è un gioco. Me l'ha insegnato papà ed è molto carino, aggiunse Pollyanna. L'abbiamo sempre giocato insieme, fin da quando ero più piccola. L'ho anche insegnato alle signore dell'assistenza e qualcuna di loro ha persino provato a giocarlo. E com'è questo gioco? Non me ne intendo molto di giochi io. Pollyanna rise ancora, ma poi sospirò. All'ormai tenue luce del crepuscolo, il suo piccolo viso apparve affilato e pensieroso. Beh, abbiamo incominciato quella volta che alla missione sono arrivate un mucchio di stampelle. Stampelle? Sì, vedi, io desideravo tanto una bambola e papà l'aveva anche scritto, ma quando le signore dell'assistenza inviarono un po' di roba alla missione, risposero che non avevano ricevuto nessuna bambola, ma diverse stampelle. Aggiunsero che ce le mandavano perché potevano sempre riuscire utili prima o poi. Ed è stato allora che abbiamo iniziato per la prima volta a fare questo gioco. Oh, non vedo che cosa ci sia di divertente. Boh, disse Nancy quasi irritata. Ma sì, il gioco consiste proprio nel trovare in qualsiasi situazione qualcosa di cui potersi rallegrare. Non importa che cosa sia, soggiunse candidamente Pollyanna. E noi cominciamo proprio dalle stampelle. Ma benedetto il cielo, non vedo come si possa essere contenti di ricevere un paio di stampelle quando si desidera una bambola. E invece una ragione c'è, disse Pollyanna. Anch'io in principio non riuscivo a capirlo, aggiunse in uno slancio di sincerità. Papà me l'ha dovuto spiegare. Beh, allora potresti spiegarlo anche a me, disse Nancy un po' sarcastica. Oh, ma è semplice. Tanto per cominciare puoi essere contenta di non aver bisogno delle stampelle. Spiegò Pollyanna trionfante. Come vedi, è molto facile una volta che hai capito il meccanismo. Sì, fra le tante cose strane ci sarà anche questa, ammise Nancy con scarsa convinzione. Non è strano, è bello, insistette Pollyanna con fervore. Da allora abbiamo sempre continuato a fare questo gioco. E più era difficile, più era divertente. Solo che qualche volta è un po' troppo difficile, come quando papà se ne va in cielo e non ti restano che le signore dell'assistenza. O come quando sei cacciato in un buco di stanza con niente dentro, in cima alla casa, disse Nancy con rabbia. Pollyanna sospirò. Sì, anche in quel momento è stato difficile, ammise, soprattutto perché mi sentivo così sola e non avevo nessuna voglia di fare il gioco. Desideravo proprio essere circondata da molte belle cose, ma poi mi è venuto in mente quanto odio guardarmi allo specchio e vedere tutte le lentiggini che ho, e mi sono sentita contenta che non ce ne fosse neanche uno. E per finire, ho visto lo splendido panorama fuori dalla finestra e ho capito che c'era proprio di che essere contente, vedi? Quando ti capita qualcosa che ti fa dispiacere, come trovarti un paio di stampelle al posto di una bambola, pensi subito a cosa servono le stampelle e allora ti ricordi che hai due gambe sane e robuste che ti permettono di correre e di salire sugli alberi e così dimentichi tutto il resto. Uff, sbottò Nancy cercando di mandare giù il groppo che aveva in gola. E più delle volte non è difficile, insistette Pollyanna. Spesso faccio il gioco senza neanche pensarci. Ora però sarà un po' più difficile dal momento che non ho nessuno con cui giocare. Forse zia Polly ci vorrà provare, aggiunse Pollyanna ripensandoci. Per carità, proprio lei, disse Nancy tra i denti. Quindi soggiunse un po' più forte. Stai a sentire, signorina Pollyanna. I giochi non sono mai stati il mio forte. Questo mi sembra più difficile degli altri, ma ci proverò io. Faremo un tentativo. Sì, ci proverò. Oh, Nancy! Gridò Pollyanna gettandole le braccia al collo. Sarà stupendo, vedrai come ci divertiremo. Ma forse, concesse Nancy piena di dubbi. Guarda di non contare troppo su di me, però. Quando giocavo perdevo spesso o arrivavo ultima, insomma, non valevo niente. Ma questa volta mi sforzerò più che potrò. Avrai comunque qualcuno con cui giocare, concluse Nancy mentre entrava in cucina con la ragazzina. Pollyanna mangiò il suo pane e latte con molto appetito. Poi, dietro consiglio di Nancy, andò in salotto dove la zia stava leggendo. La signorina Polly la guardò freddamente. Hai avuto la tua cena, Pollyanna? Sì, zia Polly. Sono molto spiacente, Pollyanna, di essere stata subito costretta a mandarti in cucina. Non ti preoccupare per questo, zia Polly. Sono contenta che tu l'abbia fatto. Mi piacciono molto pane e latte e anche la compagnia di Nancy. La zia si irrigidì ancora di più contro lo schienale della poltrona. Pollyanna, hai già fatto anche troppo tardi ed è ora che tu vada a dormire. Domani dovremo sistemare i tuoi vestiti per vedere che cosa ti manca e poi dovremo organizzare le tue giornate. Nancy ti darà una candela. Stai attenta a non rovesciarla. Ricordati che la colazione è alle 7:30 e questa volta cerca di essere puntuale. Buonanotte. Con la più grande spontaneità, come fosse del tutto naturale, Pollyanna si diresse decisa verso la zia e l'abbracciò affettuosamente. È stata una giornata così bella, disse contenta. Sono sicura che mi piacerà molto vivere con te. Ne ero convinta ancora prima di partire. Buonanotte, disse con grazia e un attimo dopo era uscita dalla stanza. Santi numi, disse tra sé la signorina Polly. Che strana bambina. Poi si fece pensierosa. È contenta che l'abbia punita. Ah, non me ne devo preoccupare. Ed è sicura che sarà felice di vivere con me. Ah, in fede mia, non so proprio che cosa pensare, concluse riprendendo la lettura del suo libro. Un quarto d'ora più tardi, lassù nel sottotetto, una bambina tutta sola singhiozzava, tenendo stretto stretto il lenzuolo tra le dita. Lo so, papà, lo so che sei con gli angeli. In questo momento non sto facendo il nostro gioco, nemmeno per un po'. È vero, ma nemmeno tu riusciresti a essere contento se fossi confinato a dormire quassù. Se almeno avessi vicino Nancy o le signore dell'assistenza o anche zia Polly, sarebbe tutto un po' più facile. Giù in cucina, intanto, Nancy si affrettava all'acquaio e strofinava con vigore il bricco del latte, borbottando tra sé: se fare uno stupido gioco come quello di rallegrarsi per aver ricevuto un paio di stampelle al posto di una bambola può renderla contenta e farle dimenticare la sua situazione, allora giocherò con lei. Certo che giocherò. Capitolo 6. Il dovere innanzitutto. Erano quasi le 7 quando Pollyanna si svegliò quel primo giorno dopo il suo arrivo. Le finestre del sottotetto davano a sud e a ovest, per cui non le arrivavano ancora i raggi del sole, però poteva vedere il cielo azzurro limpidissimo e fu certa che sarebbe stata una bella giornata. La piccola stanza era più fresca adesso, invasa dall'aria pura dell'alba. Fuori si sentiva il gioioso cinguettio degli uccelli e Pollyanna corse alla finestra per salutarli. Si accorse così che la zia era già in giardino vicino ai rosai e si preparò in fretta per raggiungerla. Scese a salti la prima rampa di scale, lasciandosi dietro tutte le porte spalancate. Attraversò di corsa il grande corridoio, scese l'altra rampa di scale, lasciò sbattere la porta d'ingresso e si lanciò per il giardino. Zia Polly era intenta a esaminare i rosai con il vecchio giardiniere quando la bambina, annunciandosi con tutta una serie di richiami, le si gettò letteralmente addosso. «Oh, zia Polly, come sono felice di essere al mondo!» «Pollyanna!» disse severamente la zia, ritraendosi e irrigidendosi. «È questo il modo di dare il buongiorno?» La ragazzina, per tutta risposta, si mise a saltellare sulla punta dei piedi, leggera come una farfalla. «Oh, con le persone alle quali voglio bene non riesco a trattenermi. Ti ho vista dalla finestra, zia Polly, e ho pensato che non sei una delle signore dell'assistenza, ma la mia vera zia, e hai un'aria così buona che non ho potuto fare a meno di scendere giù di corsa ad abbracciarti». L'anziano giardiniere si era raddrizzato intanto e la signorina Polly cercava di avere un'espressione severa, ma le riusciva meno bene del solito. «Pollyanna, tu, io, Thomas, per oggi basta così, per quei rosai siamo intesi», disse sostenuta. Poi si girò e si allontanò senza aggiungere altro. «Lavori sempre qui in giardino, signor, come ti chiami?» chiese la bambina con vivo interesse. L'uomo si voltò, aveva le labbra contratte, ma gli occhi tradivano una profonda commozione. «Sì, signorina, sono Tom, il giardiniere», rispose. Poi, timidamente, allungata una mano callosa, la posò un momento sulla testa bionda della bambina. «Assomigli tanto alla tua mamma, sai? L'ho conosciuta quando era ancora più piccola di te. A quei tempi lavoravo già in questo giardino». Pollyanna fece un sospiro. «Sul serio? Hai conosciuto davvero la mia mamma? Oh, ti prego, parlami un po' di lei!» E nel dire questo, Pollyanna saltò in mezzo alla terra smossa dove si trovava Tom. In quel momento, dalla casa risuonò il gong e un attimo dopo si vide Nancy correre fuori dalla porta verso il giardino. «Pollyanna, questo suono significa che è ora di colazione!» ansimò prendendo la bambina per un braccio e trascinandola verso casa. «Tutte le volte che senti questo suono significa che è pronto in tavola e quando lo senti devi correre come il vento dovunque tu sia, altrimenti, beh, credo che ti sarebbe difficile divertirti con il tuo gioco», concluse spingendola verso casa come si fa con le galline ribelli per farle entrare nel pollaio. Durante i primi 5 minuti la colazione fu silenziosa, poi gli occhi della signorina Polly furono attratti da un paio di mosche che ronzavano sopra la tavola. «Nancy!» disse Severa. «Da dove vengono queste mosche?» «Io non lo so, signorina, in cucina non ce ne sono», rispose Nancy. Aveva avuto troppo da fare per notare che fin dalla sera prima le finestre nella stanza di Pollyanna erano rimaste aperte. «Oh, può darsi che siano le mie mosche», disse candidamente Pollyanna. «Stamattina in cima alle scale ce n'erano una quantità che volavano come se fossero una festa». Nancy a quel punto lasciò la stanza a precipizio portandosi via i panini caldi che stava mettendo in tavola. «Le tue mosche?» esclamò la signorina Polly. «Che cos'è questa storia? Da dove sono entrate?» «Ma, zia Polly, saranno entrate da fuori attraverso la finestra, è chiaro. Ne ho vista entrare qualcuna». «Le hai viste? Vuoi dire che hai aperto le finestre senza che ci fosse la zanzariera?» «È vero, la zanzariera non c'è». In quel momento Nancy tornò con i panini, aveva la faccia con punta e tutta rossa. «Nancy», le disse la padrona con durezza, «posa quella roba e sali immediatamente in camera della signorina Pollyanna a chiudere porte e finestre. Più tardi, quando avrai terminato i tuoi lavori, passa ogni stanza con lo scacciamosche. Mi raccomando di fare un lavoro a tappeto». Quindi, rivolta alla nipote, disse: «Pollyanna, per quelle finestre ho già ordinato le zanzariere necessarie. Era mio dovere. Mi sembra però che tu invece dimentichi completamente i tuoi doveri». «I miei?» Gli occhi di Pollyanna erano pieni di stupore. «Certo, lo so che lassù fa molto caldo, ma ritengo che sia tuo dovere tenere le finestre chiuse finché non saranno arrivate le zanzariere. Le mosche, Pollyanna, non solo sono veicolo di sporcizia e assai fastidiose, ma sono anche pericolose per la salute. Dopo colazione ti darò qualcosa da leggere su questo argomento. Oh, da leggere! Oh sì, zia Polly, mi piace moltissimo leggere. La signorina Polly sospirò profondamente, quindi si fece scura in volto. Alla vista di quella sua faccia severa, Pollyanna divenne a sua volta pensierosa. Oh, e si capisce che mi dispiace di aver combinato un guaio con quelle finestre aperte, disse timidamente per scusarsi. Ti prometto che non le aprirò più. La zia non rispose e non disse più una parola fino alla fine del pasto. Poi si alzò, dirigendosi verso la libreria, che si trovava in salotto, prese da uno scaffale un opuscolo e tornò dalla nipote. Questo è il libro di cui ti ho parlato, Pollyanna. Sali immediatamente in camera tua e mettiti a leggere. Ti raggiungerò tra mezz'ora per dare un'occhiata ai tuoi vestiti. Pollyanna, con gli occhi fissi sul disegno di una mosca fortemente ingrandita, disse tutta allegra: Oh, grazie, zia Polly, grazie! E scomparve sbattendosi la porta alle spalle. La signorina Polly ebbe un sussulto. Poi, dopo un attimo di esitazione, andò decisa verso la porta e la spalancò con impeto, ma Pollyanna era già sparita su per le scale e la si sentiva salire di corsa. Quando mezz'ora dopo la signorina Polly, con un'espressione che tradiva il suo malumore in ogni piega del volto, entrò in camera di Pollyanna, fu accolta con il massimo entusiasmo. Oh, zia Polly, non ho mai visto niente di più interessante in vita mia. Santo cielo! Non avrei mai e poi mai immaginato che le mosche potessero portare in giro tanta roba in quelle zampette. Basta così, Pollyanna, disse dura la signorina Polly. Fammi vedere i tuoi vestiti. Voglio verificare in che condizioni sono. Quello che a te non va più bene lo darò ai Sullivan, naturalmente. Con evidente rincrescimento, Pollyanna posò l'opuscolo e si diresse verso l'armadio. Oh, a te sembreranno anche più brutti che alle signore dell'assistenza, e loro li trovavano già abbastanza pietosi, sospirò. Ma nei pacchi che mandano alla missione ci sono soprattutto cose per ragazzi e per persone anziane. Hai mai ricevuto un pacco per le missioni, zia Polly? Vista l'espressione sdegnata della zia, Pollyanna si corresse all'istante. Oh, che stupida! Certo che non ne hai mai ricevuto uno, zia Polly, disse arrossendo. Dimenticavo che i ricchi non ne hanno bisogno, ma devi capire che non mi ricordo più che sei ricca quando sono in questa stanza. La signorina Polly spalancò la bocca, ma non riuscì a dire una sola parola. E Pollyanna, del tutto ignara di aver detto alcunché dispiacevole, continuò: Quello che volevo spiegarti è che non si può mai sapere cosa puoi trovare in un pacco, tranne che non ci sarà mai e poi mai quello che desideri, anche quando ti sforzi di non desiderare nulla. Erano proprio i pacchi che rendevano difficile il gioco a me e a papà. Pollyanna si ricordò improvvisamente che non doveva nominare suo padre in presenza della zia, cacciò allora la testa dentro l'armadio e incominciò a tirare fuori i suoi miseri abiti. Non sono proprio belli, disse imbarazzata, e avrebbero dovuto anche essere neri se non fosse stato che c'era da comprare il tappeto rosso per la chiesa, ma è tutto quello che mi hanno dato. La signorina Polly intanto prendeva con la punta delle dita qualche capo, le cui misure erano del tutto diverse da quelle della bambina e concentrò quindi la sua attenzione sulla biancheria rammendata che era stata sistemata il giorno prima nel cassetto del comò. Quella migliore ce l'ho addosso, disse Pollyanna. Le signore dell'assistenza mi hanno comprato tutto il completo nuovo. La signora Jones, che è la presidente, aveva detto che ne avevo assoluto bisogno, che la navata centrale della chiesa senza tappeto avrebbe potuto rimbombare sotto i loro passi anche per il resto dei loro giorni. Ma comunque non credo che accadrà perché il signor White non sopporta i rumori. Sua moglie dice che è debole di nervi, ma ha anche molti soldi, e infatti si aspettano che faccia una bella offerta per comprare il tappeto, e così i suoi nervi non saranno più scossi. Penso che, visti i suoi nervi deboli, dovrebbe essere contento di avere tanto denaro. La signorina Polly non sembrava ascoltarla nemmeno e, conclusa l'ispezione della biancheria, si voltò di scatto verso la bambina. Ti hanno mandato a scuola, voglio sperare, disse. Oh, certo, zia Polly. Inoltre, pa, voglio dire, ho anche avuto lezioni in casa. Molto bene, disse la signorina Polly. In autunno frequenterai la scuola locale. Il signor Hall, il direttore, stabilirà in quale classe dovrai andare. Intanto desidero che tu legga a voce alta per un'ora al giorno. Oh, mi piace molto leggere, ma se ti dà fastidio sentirmi, posso leggere per conto mio, zia Polly, davvero. Anche perché preferisco leggere senza farmi sentire per via delle parole difficili, capisci? Oh, non lo metto in dubbio, replicò la zia asciutta e soggiunse: Hai studiato musica? Non molto, vedi, mi piace molto la musica che fanno gli altri, non quella che faccio io. Ho studiato un po' il piano. La signorina Gray che suona in chiesa mi ha dato lezioni, però se posso preferirei non continuare, zia Polly, davvero. Lo immaginavo, disse la zia con disappunto. Tuttavia ritengo che sia mio dovere farti apprendere almeno i rudimenti della musica. Sai cucire, naturalmente. Un po', sospirò Pollyanna. Le signore dell'assistenza mi hanno insegnato, ma io ho fatto una fatica tremenda. La signora Jones, per fare le asole, voleva che tenessi l'ago in modo diverso da come lo tenevano le altre signore, e la signora White pensava che si dovesse imparare a imbastire prima di fare un orlo, o il contrario, forse, e la signora Harriman diceva che non era assolutamente il caso che iniziassi a fare i rattoppi. Oh! Non ci saranno più difficoltà a questo riguardo, Pollyanna. Ti insegnerò io stessa a cucire. Quanto a cucinare, penso che non sarei capace di fare nulla. Pollyanna scoppiò in una risata. L'estate scorsa avevano cominciato a insegnarmi qualcosa, ma non sono andata molto avanti. Le signore erano ancora più divise sul metodo da usare di quanto non lo fossero per il cucito. Volevano iniziare dal pane, ma ognuna aveva un sistema tutto suo, e così, dopo molte discussioni, decisero che sarei andata a casa di una di loro a turno una volta alla settimana. Avevo imparato a fare il budino di cioccolato e la torta di fichi quando dovetti interrompere le lezioni, e a quel punto la voce di Pollyanna ebbe un cedimento e si interruppe. Budino di cioccolato? Torta di fichi? Sbottò la signorina Polly. Oh, ci vuole altro per saper cucinare. Restò qualche minuto pensierosa, poi proseguì. Ogni mattina alle 9 leggerai, me presente, per mezz'ora. Prima però dovrai ordinare la tua stanza. Il mercoledì e il sabato mattina andrai in cucina a fare pratica con Nancy. Le altre mattine le passerai con me a cucire e durante il pomeriggio studierai musica. A questo scopo farò venire immediatamente un insegnante, concluse alzandosi dalla sedia. Pollyanna la guardò smarrita. Ma zia Polly, non mi hai lasciato neanche un minuto per vivere? Vivere? Che cosa vuol dire? Come se tu non continuassi a vivere in ogni caso? Oh, ma è chiaro che continuerei a respirare mentre faccio tutte quelle cose, zia Polly, ma non sarebbe un vero vivere per me. Uno respira mentre dorme, ma non vuol dire che sia vivo. Per vivere io intendo fare le cose che uno desidera: giocare all'aria aperta, leggere da sola, naturalmente, salire in cima alla collina, parlare con Tom e Nancy in giardino e poi imparare a conoscere le case e le persone, tutto ciò che ho potuto scorgere per le strade arrivando qua ieri. Ecco. Quello che secondo me vuol dire vivere e respirare soltanto non è vivere. La zia fece un gesto di irritazione e disse con voce severa: Pollyanna, sei la bambina più stravagante che io abbia mai incontrato. Ti sarà concesso naturalmente anche un tempo ragionevole della giornata per svagarti. Mi sembra però che se io mi sforzo di fare il mio dovere nell'offrirti cure adeguate e una corretta istruzione, tu a tua volta dovresti fare altrettanto evitando di vanificare i miei sforzi. Pollyanna apparve molto scossa dalle parole della zia. Oh, zia Polly, ti sembra possibile che io possa essere un'ingrata con te? Lo sai che ti voglio bene. Tu non sei una signora dell'assistenza, ma sei la sorella di mia madre, una vera zia. Benissimo, allora cerca di non comportarti come un'ingrata, disse la zia dirigendosi verso la porta. Si trovava a metà della rampa delle scale quando una voce un po' insicura la chiamò. Scusa, zia Polly, non mi hai detto quale dei miei vestiti hai intenzione di regalare? La zia si lasciò sfuggire un lungo sospiro che non mancò di raggiungere l'orecchio di Pollyanna. Ho dimenticato di dirti che nel pomeriggio Timothy ci condurrà in centro. Nessuno di quegli abiti può essere adatto a mia nipote. E non farei certamente il mio dovere nei tuoi riguardi se ti permettessi di mostrarti con quella roba addosso. Adesso era Pollyanna a sospirare. E sentì che d'ora in avanti avrebbe odiato la parola dovere. Zia Polly, scusa, disse con voce forte e decisa, non sai se c'è un modo per essere contenti di tutta questa faccenda dei doveri? Come? La signorina Polly alzò lo sguardo sorpresa. Poi, all'improvviso, con il volto rosso di collera, corse giù per le scale esclamando: Non essere impertinente, Pollyanna! Nella piccola stanza soffocante del sottotetto, Pollyanna si lasciò cadere su una sedia. La sua esistenza le si presentava come una infinita serie di doveri. Non capisco proprio che cosa ho detto di impertinente, disse con un sospiro. Volevo solo che mi spiegasse un modo per essere contenta di tutta questa faccenda dei doveri. Per un bel po' Pollyanna sedette in silenzio a fissare con occhi tristi il mucchietto di abiti abbandonati sul letto. Poi si alzò lentamente e cominciò a riordinare le sue cose. Non c'è proprio niente di cui essere allegra, mi pare, disse a voce alta, a meno che il trucco non sia essere felici quando il dovere è fatto e finito. E scoppiò a ridere.